è una situazione molto particolare, soprattutto perché il nostro primo pensiero va a chi è ovviamente in questo momento in sofferenza. Ci facciamo carico anche di questo per quello che è la nostra possibilità, però non abbiamo sicuramente rinunciato a festeggiare questo 75esimo, che era un anno in cui avevamo così cercato di focalizzare un mare di iniziative da fare con il mondo, insomma, con tutte le nostre piazze colorate, illuminate e di festa. Purtroppo questo non potrà accadere, ma ci siamo comunque sia attivati perché questa piazza non sia più la piazza fisica, ma purtroppo solo una piazza virtuale. Ma credo che sarà, per come si stanno così avvicendando tutte le iniziative, sarà una piazza molto più piena di quella che noi avremmo potuto avere fisicamente, quindi siamo particolarmente contenti di questa mobilitazione. Un mare di giovani si sono resi disponibili per trasmettere i messaggi, le immagini, le storie dei nostri partigiani e delle nostre partigiane, quindi pensiamo che sia un 25 aprile diverso ma comunque speciale. Su tutte le 50 sezioni della città metropolitana nostra ci sono iniziative, quindi su tutte le pagine delle nostre sezioni hanno già iniziato a pubblicare le manifestazioni virtuali che ovviamente ci saranno. Non dimentichiamo comunque anche di portare un fiore, una corona nei luoghi simbolo della nostra città e dei nostri paesi, quindi ci sarà un momento anche rituale, insomma, di questo genere, ma il tutto sarà tutto molto virtuale. Entrando nelle pagine di Facebook, di Instagram e di tutte le piattaforme sociali che ci sono, troverete sicuramente già tanti racconti, tante immagini che ci portano a conoscenza di quello che quei territori rappresentano dal punto di vista resistenziale. Ci sono iniziative, vedo anche sia il 25 aprile, che è la liberazione nazionale, ma anche nella liberazione di Bologna il 21. Sì, certamente sì, la giornata del 21 sarà ancora una giornata, insomma, che raccoglie la tradizione, quindi ci sarà il suono della campana dell'Arengo, ci sarà comunque sia la deposizione della corona ai nostri martiri, ai nostri uomini e donne della resistenza, e poi ovviamente la deposizione in altri luoghi della città, laddove insomma sono accaduti tanti fatti che in questi anni abbiamo sempre raccontato e di cui abbiamo fatto memoria. Quindi sarà ridotto in questo senso, ma sarà comunque particolarmente vissuto, tant'è che ci sarà anche inizierà proprio il giorno 21 la proiezione di questo nuovo film, docufilm The Forgotten Front, che insomma parte proprio su Bologna, città di Bologna, quindi la cultura insieme alle istituzioni avranno comunque degli appuntamenti particolarmente significativi. Ovviamente i contesti sono molto diversi, ma anche per fronteggiare questa situazione ci vuole una bella resistenza. Sì. Ed è quella proprio che stiamo facendo tutti i giorni, una resistenza che è anche personale, insomma, no? Di ognuno di noi. Cerchiamo anche così di trasmettere non solo, insomma, la memoria di ieri, ma anche la memoria di oggi, perché anche oggi stiamo facendo una grande resistenza a rinunciare ad un pezzo di libertà alla quale noi avevamo comunque sia ben assaporato la qualità della vita in libertà, e oggi invece questo è sicuramente condizionata, ma siamo molto fiduciosi che le cose potranno migliorare. Siamo anche molto attenti a tutto quello che si sta sviluppando sulla nostra città. In questi giorni abbiamo raccolto fondi da devolvere alle nostre istituzioni sanitarie, quindi agli ospedali della città di Bologna, e abbiamo anche deciso di devolvere parte delle nostre modestissime entrate alle cucine popolari, perché sappiamo in questo momento quanto sia difficile così sbarcare il lunario, come si dice in dialetto, insomma. Quindi il nostro impegno è proprio anche a sostenere coloro, facendo la resistenza di oggi, a sostenere coloro che oggi sono più in difficoltà di ieri.